Ciao a tutte e tutti, intanto grazie mille per essere qua. Solo due parole proprio per provare a introdurre, a dire un po' i motivi che hanno spinto a organizzare questa mostra, questa chiacchierata anche con questo compagno in diretta da Tulkarem. Vabbè, come credo è chiaro a tutte e tutti, la situazione in Palestina è abbastanza tragica e il 2024 è stato forse l'anno più pesante da decenni a questa parte. Il 2025 si prospetta, sia per Gaza sia per la Cisgiordania, in realtà un anno molto molto complesso. Per quello che viene definito anche semplicemente da parte dell'amministrazione israeliana l'anno dell'annessione della Cisgiordania. E quindi, vabbè, questo è sicuramente uno dei motivi, anche proprio una richiesta che è stata fatta dai compagni, dalle persone che ho incontrato in Palestina, è quella proprio di raccontare, per spingere, per fare cose in solidarietà e per andare nella direzione, insomma, della liberazione del popolo palestinese. E in seconda forma, anche per dare un supporto un po' più concreto in questo momento, appunto, di enorme difficoltà, almeno per quanto riguarda i campi, parlo della Cisgiordania, dei campi profughi del nord, dove ad oggi siamo a circa 40-45 mila profughi dei campi profughi, quindi persone che sono state mandate via dalle loro case ormai da quasi 50 giorni. Ecco, quindi il ricavato andrà a sostenere, insomma, in minima parte ovviamente, però a dare un piccolo aiuto a questa situazione, nello specifico i campi profughi di Tulkarem, che è il posto dove, di cui posso parlare di più perché ho conosciuto, ecco, un po' maggiormente. Vabbè, a me piaceva che non fosse una chiacchiera frontale, penso che io sono stata solo 3 mesi in quei territori, ci saranno persone che conoscono molto di più di me, la situazione, e quindi se ci sono domande, interventi, questioni, riflessioni, per me sono benvenute, ecco, interrompetemi, e se divento troppo lunga anche tagliatemi, ecco, e questo. Quindi io pensavo di insomma iniziare un po' così e poi alla fine faccio vedere un po' di foto e poi abbiamo invece una diretta appunto con un compagno che vive a Tulkarem e che sta sopportando la situazione là in questo momento. Vabbè, niente, che dire, questo giusto per avere una idea, una banalissima cartina, pessima. Insomma, dei territori occupati palestinesi. Io in realtà sono stata abbastanza in giro in vari posti nella West Bank, ma mi sono fermata soprattutto a Tulkarem, che quindi è questa città del nord, al confine fondamentalmente c'è un muro lì che divide il 48, cioè quello che tutto il mondo chiama Israele, ma che molti palestinesi chiamano 48, perché è figlio appunto dell'occupazione e delle pulizia etnica nata nel 1948. Ad oggi la guerra che sta subendo la Cisgiordania, io non parlerò di Gaza, penso che appunto tutti sono ben coscienti della situazione a Gaza, anche della Cisgiordania, però appunto insomma parlerò solo di questo. La guerra che sta subendo la Cisgiordania in realtà è veramente su tutti i livelli, è la pulizia etnica, perché di fatto questo è che sta vivendo questo territorio nell'ultimo anno ha subito un'escalation mai vista, o comunque che da decenni non si vedeva. Volevo dare giusto due parole, poi senza fare considerazioni geopolitiche, però proprio dare magari due numeri, una minima prospettiva d'insieme di quello che sta accadendo. Per me, insomma, è una guerra che io ho visto un po' su tutti i livelli, diciamo, una guerra che viene combattuta a livello economico, quindi la popolazione palestinese in Cisgiordania sta soffrendo da un punto di vista economico, dato che sono aumentati i prezzi i beni di prima necessità enormemente dal 7 di ottobre, tutto è più caro, all'inizio ancora di più, quasi i prezzi erano raddoppiati. Questo per dazi, per tasse e per la guerra proprio che viene portata avanti anche attraverso proprio questo, cioè la sussistenza. La ricerca da parte di Israele di distruggere ogni forma di autosostentamento e di sussistenza economica dei palestinesi attraverso la devastazione dei campi, l'impossibilità di, ad esempio, raccogliere le olive e tutto quello che comporta l'agricoltura, l'allevamento, eccetera, eccetera, eccetera. E poi anche il fatto che i palestinesi al 7 di ottobre non possono più andare a lavorare in 48, quindi in Israele. Quindi non possono più, centinaia di migliaia di famiglie non possono, insomma, non hanno più quel reddito che era il reddito con la quale comunque si sostentavano. Questa è una parte che in realtà io non avevo capito bene prima di andare lì, e invece vivendo appunto le persone hanno dovuto arrangiarsi in altre forme a partire dal 7 di ottobre. È una guerra fisica, una guerra molto materiale, nel senso che viene combattuta attraverso checkpoint, ci sono checkpoint ovunque sul territorio, spostarsi è veramente difficoltoso, per piccole tratti di territorio tu non sai mai quanto ci metti perché è pieno di posti di blocco e di controlli israeliani, ed è una guerra fatta di raid e incursioni. Le incursioni militari sono costanti, quotidiane, in tutto il territorio, questo per arresti, per anche uccidere semplicemente chi Israele identifica come nemico, o appunto semplicemente per mostrare il fatto che sono loro che detengono il potere in questi territori. E poi è una guerra molto fisica, si parla di circa quasi 1000 morti dal 7 di ottobre, un numero che in realtà non si era mai visto di nuovo né nella prima né nella seconda intifada. Quindi in un anno sono state un anno e tre mesi sono state uccise, siamo intorno alle 1000 persone, 1000 persone più 7000 feriti. Questo giusto per dare un'idea di numeri. E oltre alle detenzioni, si parla di più o meno 11.000 persone detenute in un anno. Ad oggi siamo a circa 10.000 persone, ecco. E le carceri israeliane, penso che tutti hanno un'idea di che cosa sta succedendo all'interno delle carceri israeliane, ma la tortura è assolutamente sistematica e la detenzione viene utilizzata come forma per torturare l'intera popolazione palestinese. Non solo i detenuti stessi, ma anche le famiglie delle persone prigioniere. E niente, giusto per dire altre due domande, poi la smetto. La forma di occupazione, cioè perché dico che il 2025 comunque è un anno in cui bisogna fare cose per la Palestina, cioè come sempre ovviamente, però quest'anno forse è ancora un anno ancora più chiave ed è iniziato malissimo, ecco, per la Cisgiordania grazie all'operazione Iron Wall, di cui poi magari appunto racconto un po'. La guerra di annessione che sta facendo la Israele è totale. Nel 2024 sono stati annessi, quindi dichiarati terre israeliane, il numero più alto di terre che era stato dichiarato nei precedenti 30 anni, quindi in un anno circa 24.000 dunams, che sono 2.500 ettari di terreno, sono stati dichiarati terre statali, ossia israeliane. Questo, insomma, appunto, nei precedenti 30 anni eravamo allo stesso numero. In più anche 24.000 dunams sono state dichiarate terre come riserve naturali, per togliere ai palestinesi la possibilità di costruire, la possibilità di pascolare gli animali e di fare agricoltura. Questo per ingrandire le loro colonie, i loro settlement e per costruire nuove strade che creano connessioni tra le colonie e tolgono quindi la possibilità di fatto di movimento, tagliando fuori intere comunità palestinesi, che è quello che sta accadendo. Hanno demolito più di 1000 case, di nuovo in un anno, di nuovo un numero mai visto, e sono state mandate via almeno 40 comunità. Questo di palestinesi, ecco. Questo giusto per appunto magari dare un'idea numerica della dinamica in corso. Vabbè, questa è chiaramente una immagine, penso che tutti hanno in testa di quello che era la Palestina prima e di quello che si sta riducendo oggi. Anche la volontà, i soldi che sono stati stanziati per le colonie nei prossimi anni è immenso. Hanno dato miliardi di shekel per la costruzione di nuove strade e per la costruzione di fatto di nuove case, colonie. Quindi se adesso siamo tra i 500 e i 700 mila coloni israeliani nei territori occupati palestinesi, insomma, il tentativo da parte del governo è quello di aumentare il numero di coloni che occupano i terreni e anche di implementare l'economia delle colonie. Questo. Vabbè, queste sono immagini di Tulkarem, di uno dei campi profughi di questa città. Che cosa sono i campi profughi? I campi profughi sono quelle parti di territorio che sono state abitate nel 1948 a seguito della Nakba, di cui penso che tutti sanno bene che cos'è, quindi l'esodo palestinese. Quando è nato Israele, hanno costruito attraverso la pulizia etnica dei territori che erano Israele, e hanno mandato via le persone si sono ritrovate sparse un po' in realtà in tutto il Medio Oriente e molte comunque in Palestina, cioè in Cisgiordania occupata. Quei territori prima ovviamente erano tendopoli, poi sono diventate case, strade, negozi, scuole, eccetera eccetera eccetera. Questo era uno di questi luoghi, Tulkarem Camp. In realtà Tulkarem ha due campi profughi, uno si chiama Tulkarem Camp e l'altro Nur Shams. Per dare un'idea numerica, qua ci abitavano tra i 20 e le 24 mila persone, nell'altro campo profughi siamo a 14-15 mila persone. A oggi questa devastazione, che era questa era una giornata dopo un raid, quindi dopo un'incursione militare, che in realtà era quasi settimanale, se non settimanale, ogni 2-3 settimane gli israeliani entravano nel campo profughi distruggendo tutte le infrastrutture che potevano, perché il loro obiettivo militare teorico era quello di attaccare la resistenza palestinese, perché Tulkarem, come Jenin, il nord fondamentalmente, erano le città che per gli israeliani sono la culla della resistenza armata palestinese. Cosa che, certo, ci sono gruppi armati palestinesi, la resistenza palestinese, ognuno le sue forme sicuramente esistono. Chiaramente, come a Gaza, è stata la scusa da parte di Israele per attaccare e distruggere intere parti di territorio. E, se questa è la retorica che utilizza Israele, i compagni palestinesi invece comunque ribadiscono che il vero motivo per la quale i campi profughi ad oggi sono sotto attacco è ovviamente la pulizia etnica, ed è anche per distruggere l'idea di profugo, cioè quello che sta cercando di fare Israele è di cancellare l'idea che esistano i profughi palestinesi, questo per distruggere l'idea del possibile ritorno, anche perché se esistono i profughi dovrebbero avere la possibilità di tornare nella loro terra, ma quella per Israele non è più la loro terra, e quindi questo vogliono distruggere, vogliono annientare quelle lì. Ed è per questo che anche UNRWA è sotto attacco, quindi l'istituzione che si occupa dei campi profughi e dei profughi in generale palestinesi. Queste immagini sono di, ripeto, di uno dei raid, successivi a uno dei raid, ripeto, settimanali. A oggi la situazione è molto differente. Infatti il 22 gennaio di quest'anno è iniziata quella che viene chiamata l'operazione Iron Wall, l'operazione Muro di Ferro. Tre giorni dopo la presunta tregua e il cessate il fuoco con Gaza. Cosa hanno fatto? Hanno spostato la guerra, che era già in corso, ovviamente, in Cisgiordania. È iniziata a Jenin, quindi quest'altra città del nord considerata il capoluogo della resistenza armata, e poi si è spostata pochi giorni dopo su Tulkarem. L'occupazione delle... è stata differente, quindi, da queste... Vabbè, questo era un pezzo di muro dove mettono i cecchini israeliani, perché cosa fanno quando fanno queste incursioni? Entrano anche spesso nelle case delle persone, mandano via la gente e nei posti più alti mettono i cecchini, che per sparare insomma a chiunque di passaggio. E, vabbè, giusto per... E niente, quindi invece la situazione oggi è molto peggiore di queste immagini. Se queste immagini erano di nuovo la settimanali o mensili che facevano incursioni per devastare acqua, elettricità, luce, strade, eccetera, eccetera, eccetera, a oggi l'occupazione è permanente. Significa che sono 45 giorni a Tulkarem e circa 50 a Jenin, dove i militari non se ne stanno andando. L'80-85% della popolazione di questi campi profughi è stata obbligata ad andarsene, quindi sono profughi dei campi profughi. Molte di queste persone hanno perso la casa, anche perché hanno devastato, distrutto interi quartieri, facendoli esplodere o distruggendoli con i bulldozer, appunto perché la volontà è quella di mandare via le persone, di obbligare, di rendere invivibili questi territori, per obbligare le persone ad andare via, dove? Comunque non si sa, però questo è il tentativo. Vabbè, questa era un'immagine, vabbè, era uno dei video, io ho visto questa rotonda quotidianamente, nel senso, era una distesa di terra, questo per vedere come, questo era in realtà neanche nel campo profughi, questa era parte della città di Tulkarem, perché in realtà tutte le infrastrutture sono sotto attacco, in realtà quello che cercano di fare è semplicemente veramente distruggere anche la bellezza che c'è nelle cose, vabbè, non è che era particolarmente interessante, però per vedere come agiscono, come si muovono con questi macchinari. Qua è come arano le strade, perché era una cosa che a me mi aveva colpito. Io prima di arrivare a Tulkarem mi avevano detto non ci sono più strade a Tulkarem, io non capivo cosa volesse dire. Ed effettivamente è vero, nei campi profughi di Tulkarem non c'è più una strada, ma non perché non c'erano già prima, le strade erano fatte di terra, le strade erano fatte di asfalto, c'erano infrastrutture, c'era tutto. Oggi non c'è più una strada, perché questo è come fanno. Loro arano le strade e poi passano con i bulldozer e tolgono tutto l'asfalto, e davvero non c'è più una strada, è incredibile, ma quando piove si creano dei fiumi, dei torrenti di fango dove è impossibile camminare, le macchine non passano, e proprio di nuovo per rendere impossibile la vita. L'attacco alle infrastrutture, centinaia, migliaia di persone rimanevano settimanalmente senza acqua ed elettricità, era proprio una prassi abituale con cui agivano. Loro attaccavano quello, attaccavano i negozi, attaccavano anche le scuole. Questa strada l'avevano distrutta 3 volte in un anno, dici comunque. Vabbè, questa era invece un'abitazione, una casa fatta di 3 piani, e è stata colpita, bombardata tramite F-35, quindi anche per sfatare il mito che non è vero che non attaccano con i missili, e l'hanno fatto ripetutamente. Questa era appunto di nuovo una casa a 3 piani, sotto c'era un caffè, sopra ci abitavano delle famiglie, e semplicemente... gli israeliani presumevano che sotto c'erano dei terroristi, ossia della gente appartenente alle brigate di resistenza di Tulkarem, e hanno bombardato in pieno giorno con 3 missili e con un drone. Sono morte in 20 persone. perché c'era un caffè lì sotto, tutta la famiglia e tutte le persone all'interno del caffè. Vabbè, mi aveva impressionato comunque l'idea. Vabbè, questa è un'idea, un'immagine tipica tipo delle case dei campi profughi, quindi una parte che era stata appena ricostruita perché è distrutta in uno dei raid precedenti, e il raid successivo gli hanno distrutto un'altra parte. Quindi comunque era una ricostruzione continua, e comunque impressionava il fatto che il giorno dopo i raid, il giorno dopo le incursioni, le persone ricominciavano a lavorare, cioè ricominciavano a costruirsi le case, a rimettere a posto i negozi. Una persistenza incredibile per me insomma, della vita quotidiana, ecco. Queste le strade, no? Cioè, non c'è più niente. E questo, ripeto, sono tutte immagini precedenti a questa incursione in corso, che ad oggi, ecco, questo è un video che mi hanno mandato degli amici, comunque che si trovano online, di Tulkarem Camp. Ed era una situazione di 10 giorni fa, perché questo amico ha perso la casa, visto che era su questa strada. Quello che hanno fatto è semplicemente di creare un vuoto. E non si sa bene i motivi. Hanno dichiarato comunque i militari israeliani che loro dai campi di Tulkarem e di Jenin non se ne andranno. Quindi l'occupazione sta diventando permanente. E considerate che teoricamente la Palestina, la Cisgiordania occupata, è divisa in zona A, B, C. Quindi la zona A è sotto l'intero controllo dell'autorità palestinese. La zona B è una zona mista di controllo militare israeliano e palestinese. La zona C invece è sotto l'intero controllo israeliano. Queste zone non vengono mai, ovviamente, comunque neanche rispettate per quello che vale. Jenin, Tulkarem erano zone A, quindi dove gli israeliani teoricamente non avevano il diritto neanche di accedere. Vabbè, comunque queste sono un po' le condizioni. Vabbè, niente, queste sono immagini un po' appunto quello che purtroppo invece le conseguenze di questi raid, di queste incursioni sono insomma un sacco di morti, i funerali, eccetera. Come dicevo, siamo a circa 1.000 morti, anche i funerali per me sono stati impressionanti perché c'è un'energia collettiva, una rabbia che boh, chiaramente non viveva nella stessa condizione, quindi io non avevo mai incontrato. I cimiteri pure sono abbastanza impressionanti, è pieno di giovani, per me stanno sterminando una generazione. E niente, comunque il ricordo. Poi ne parlerò un po' meglio, appunto, è comunque fortissimo, importantissimo l'immagine e l'orgoglio con cui comunque tutta la comunità tiene in conto i propri caduti, è veramente importante, ecco. Cioè, la forza di resistenza nasce anche da questo, dal ricordo che hanno delle proprie vittime, dei propri che non chiamano morti, perché lì sono i martiri non muoiono mai, quindi questo è anche importante da dire, nessuno ti dirà mai morto, ma in realtà li chiamano tutti martiri. Questa era una scuola. Questa era una scuola in uno dei campi, questo quindi già si parla di tanti mesi fa, però appunto queste sono insomma, le condizioni. Questo era quello che veniva chiamato la piccola Gaza, che era un intero quartiere di uno dei due campi profughi di Tulkarem, che era completamente distrutto. Erano tipo 20 case in cui inabitate, completamente impossibile ormai da. Impossibile da viverci perché completamente devastati. E oggi purtroppo penso che la situazione è molto peggiore. Vabbè, queste immagini di uno dei tanti raid a Tubas, quindi in un'altra città. Però come funzionano? In pieno giorno mi sono ritrovata in mezzo a sto raid, perché non è che ne sai. Questi arrivano, occupano la strada principale, bloccano la strada principale e con i fucili puntati mirano e sparano anche a chiunque passi di lì. Cioè, e qua avevano, di fatto avevano arrestato appunto queste persone a caso in realtà, e avevano occupato la Western Union. Che era la Western Union, cioè, la gente diceva boh, sono lì a rubare i soldi, chissà i motivi, però veramente sono stati ore lì dentro e niente, bloccando ovviamente mezza città. Vabbè, questa è solo un'immagine di come sono invece i coloni israeliani, che comunque anche questo mi ha impressionato, la militarizzazione profonda della società israeliana. Questa era in realtà era una festa sionista. Cioè una festa ebraica, sionista, in realtà penso sionista di base, mascherata da ebraica, ad Al-Khalil, quindi a Hebron. E questo è come cammina, cioè nel senso, comunque, coi fucili, mitra al collo e niente, ecco. Cioè, ci sono veramente tante armi, anche perché dal 7 di ottobre, ma anche prima, i coloni sono stati super finanziati, gli hanno regalato centinaia di migliaia di armi. E i risultati, infatti, è un incremento di violenza enorme dei coloni sulla popolazione palestinese. Non ci sono mai stati ancora, però non ci sono mai stati così tanti attacchi come nel 2024. Furti, incendi, distruzione di case, ecco, la quotidianità in tanti territori della Palestina. soprattutto appunto chiaramente vicino alle colonie. Vabbè, queste invece sono qualche immagine appunto di cui parlavo un po' prima, che è proprio l'importanza della memoria, no? L'importanza dei martiri. Ecco, questa è Nablus, è una delle piazze principali della città vecchia, e queste sono immagini di alcuni dei caduti, erano parte di uno dei gruppi resistenti di Nablus che hanno praticamente sterminato. E niente, in tutte le strade, nei negozi, ci sono immagini appunto dei morti, dei martiri. Come il ricordo è veramente, veramente importante, ecco, le persone sono molto orgogliose dei loro caduti e questo lo mostrano anche attraverso medagliette al collo, quindi quando qualcuno, qualche vittima familiare, eccetera, eccetera, insomma, viene portato su di sé il ricordo dei caduti e lo portano comunque con orgoglio. A me mi ha impressionato che in tutte le strade, veramente nei negozi, eccetera, eccetera, c'erano le foto dei morti. Questa era una delle tombe, anche i cimiteri, ripeto, sono fortissimi, ecco, cioè incredibile. Questi erano uno dei leader del gruppo armato di Nablus, che si chiamava Ibrahim Nabulsi. Lui ha 18 anni, avevano provato a ucciderlo già 2 volte, alla terza ci sono riusciti. E niente, era considerato uno dei leader, appunto, del bracciale, cioè insomma, della brigata di Nablus. E niente, sono stati comunque anche lui, appunto, il leone di Nablus, viene chiamato. E rimane di nuovo nel ricordo veramente di tutti. I cimiteri sono vissuti, le famiglie passano quotidianamente quasi a incontrare, insomma, a ricordare insomma, i propri cari. E anche non soltanto le famiglie, tanti ragazzini. Io ho visto un sacco di ragazzini che si fermavano alle tombe, facevano la preghiera e continuavano. Quindi, veramente, comunque è molto importante questa cosa. Queste sono alcune immagini delle proteste invece per i prigionieri. Quindi questa era una manifestazione sempre a Nablus per la fine del genocidio a Gaza e per la liberazione delle donne detenute e anche dei prigionieri, però specificatamente per le donne detenute, che sono appunto migliaia. E questa invece era una manifestazione a Tulkarem, che veniva fatta settimanalmente per comunque ricordare l'impegno che dovrebbe mettere sia la comunità internazionale che la comunità, teoricamente l'autorità palestinese, nella liberazione dei prigionieri. Vabbè, volevo poi dire 2 parole su, ad esempio, fare un esempio, no, di quelle che sono le storie di tante famiglie. Questa è una famiglia che ho incontrato appunto a Tulkarem. Lei è la mamma di questo ragazzo che è stato condannato a 15 anni di carcere. E è stato condannato appunto perché accusato di far parte della resistenza. Quando l'hanno arrestato, gli hanno sparato 5 proiettili nel corpo. In realtà lo volevano ammazzare, ma non ce l'hanno fatta. E niente, lui adesso è in carcere, non si ha nessuna notizia di lui perché dal 7 di ottobre non c'è nessuna possibilità di parlare con i propri familiari. Lui probabilmente non può più camminare in realtà per le ferite riportate. Vabbè, questo era il suo resto. E niente, però è una famiglia emblematica per me perché appunto è un esempio, ma ci sono tantissime famiglie così. Questo era il loro salotto. E in realtà tutte le immagini delle persone lì dietro sono tutti morti. Sono gli amici di suo figlio e del suo nipote e erano tutti parte della brigata di Tulkarem e sono stati tutti uccisi nei primi mesi anche quasi di attività. A me mi avevano anche chiesto di parlare, insomma, di ricordare queste persone che spesso vengono dipinti come i terroristi, no? Come insomma super mostrificati. Anche noi in Occidente abbiamo una lettura comunque veramente fuorviata di quella che è la realtà. Lui, ad esempio, era un ragazzo, Jihad, aveva 24 anni. E per me di nuovo, sempre parte della stessa famiglia. Gli hanno arrestato il padre che aveva 2 anni, e il padre è stato condannato a 15 anni di carcere, quindi il padre l'ha riabbracciato che aveva 17 anni. Una storia quindi di carcere in cui la madre nemmeno poteva più accedere alle visite per punire il padre, fondamentalmente, quindi insomma, e poi è entrato nella resistenza. E loro mi avevano detto, parla di Jihad perché era un eroe. E quindi niente, riporto questa cosa. E vabbè, mi aveva impressionato anche come boh, ad esempio, questo ragazzo cercava di evitare la morte delle persone accanto a lui perché sapeva di essere un obiettivo, dato che è stato uno comunque delle persone che ha aiutato a fondare, insomma, la brigata di Tulkarem, e niente, quindi sapeva che probabilmente avrebbero cercato di ucciderlo, e quindi non dormiva più a casa di nessuno. Prima era ospitato dalla zia, dalla cugina, eccetera, eccetera, c'aveva dei figli, l'altro c'aveva i figli, eccetera, eccetera. Lui, non volendo uccidere nessuno, dormiva per strada o dormiva in macchina. Nonostante questo, non è riuscito a evitare né la sua morte né quella di altre persone, perché appunto quando l'hanno ammazzato era in una macchina con altre quattro persone, erano in quattro, in un raid in pieno giorno, in un proprio speciale per uccidere lui, e insomma hanno sparato più di 100 proiettili, hanno ucciso chiaramente tutti, oltre che a un passante, e niente, però appunto ripeto, viene molto, è una persona che vengono molto ricordati. Quindi è un esempio un po' di una famiglia tipica: da un lato il padre è incarcerato per 15 anni, il figlio è incarcerato per, il nipote è incarcerato per 15 anni e l'altro figlio ucciso, ecco, martire. Questa invece sono due immagini di quella che è la situazione in Jordan Valley, quindi altro territorio più vicino alla frontiera con la Giordania, di una comunità fatta da più o meno 15 case palestinesi, tutte distrutte nell'ultimo anno. Quindi di nuovo coloni e militari assieme hanno semplicemente raso al suolo le case perché sono state considerate illegali. Questo di nuovo pratica che sta venendo sempre più utilizzata. E la distruzione di intere comunità, insomma, di nuovo è all'ordine del giorno. Questo, vabbè, a me mi ha impressionato. Questo era un bulldozer che hanno utilizzato nel 1967 per radere al suolo numerose comunità palestinesi quando hanno occupato i territori palestinesi. E gli israeliani l'hanno messo a benvenuto di una delle loro colonie, lì sopra, ecco. Io lo trovo abbastanza atroce, non so come faccia a essere un benvenuto, però ecco, insomma, questa è la mentalità che hanno. Questo è uno dei numerosissimi posti di blocco che ogni tanto vengono usati, ogni tanto meno. E questa era una casa, una famiglia beduina, appunto, che faceva insomma i controlli tutta la notte, stavano svegli per impedire il furto di bestiame e i sabotaggi che venivano fatti dagli israeliani contro le famiglie palestinesi, visto che loro avevano appena rubato un cavallo, avevano provato a rubare le pecore e i muli, appunto stavano svegli tutta la notte per controllare che i coloni non arrivassero. Sono altre immagini appunto di un altro raid. E vabbè, racconto solo ancora la storia di questa famiglia che di nuovo, insomma, magari le storie a me hanno sempre un po' impressionato. Questa era una famiglia a cui avevano appena esploso la casa, sempre a Tulkarem Camp, e il giorno dopo l'esplosione, la distruzione della loro casa. Allora hanno distrutto la casa perché avevano tre figli, e tutti e tre figli, due figli sono stati uccisi pochi mesi prima, e il terzo figlio, invece, appunto il più giovane, dopo la morte dei suoi fratelli, aveva scelto di fare un'operazione militare, un'operazione armata contro dei militari israeliani, ed era riuscito a uccidere qualche militare israeliano. Per questa operazione militare è stato arrestato e condannato a numerosi ergastoli, quindi non lo riabbracceranno mai più. Nonostante questo, nonostante comunque loro hanno perso tutti e tre i loro figli, gli israeliani hanno voluto punire ulteriormente la famiglia distruggendogli la casa. Ecco, nonostante questo, a me mi aveva impressionato tantissimo. Avevo intervistato lei, cioè comunque avevo avuto possibilità di parlare, e lei ma di un orgoglio incredibile, nonostante tutto, nonostante insomma la tragedia di tutto quello che gli era successo. Un grandissimo orgoglio nei confronti dei loro figli che avevano scelto di dare la loro vita per la liberazione della Palestina. E questa cosa qua, comunque, nel senso, insomma, a volte sarà normale, però appunto, ecco, fa un po'. Era fortissimo, ecco, una determinazione incredibile, nonostante, insomma, avevano perso tutti e tre i figli. Questi sono, vabbè, altri funerali. Questo è Jenin, invece, quindi il campo profughi di Jenin, che sinceramente era ancora peggio di Tulkarem già ai tempi. Non c'era una casa che non avesse decine di fori di proiettili, e non c'era neanche lì più una strada. Questa era la successione dopo appunto un altro raid che aveva visto, in realtà no, un attacco con drone, che aveva visto sei morti. Questo era un ragazzino di 15 anni. E questi erano tre fratelli. Al di fuori di questi mu di questa mura, di queste mura, gli israeliani la sera prima avevano lanciato una bomba tramite drone, uccidendo tutte le persone lì riunite, che in realtà si stavano bevendo un tè. E niente, sono morti tutti. Di nuovo, sui media occidentali chiaramente erano sei terroristi. E questo era il funerale, quindi comunque la solidarietà della popolazione, nonostante questo momento era un momento di blocco dell'autorità palestinese del campo profughi di Jenin, perché in realtà a oggi, ad esempio a Jenin, ma in tutta la Palestina, non c'è soltanto come nemico Israele, ma l'autorità palestinese sta collaborando molto, diciamo, comunque per la repressione della resistenza palestinese. Jenin è stato il campo di prova dove l'autorità palestinese ha ucciso, vabbè, varie persone, arrestato decine di persone e ha fatto le stesse cose che hanno fatto gli israeliani, fondamentalmente. Quindi ha fatto un blocco al campo profughi di Jenin per 40 giorni. 3 giorni dopo che avevano liberato, 5 giorni dopo che avevano liberato Jenin, quindi avevano tolto i posti di blocco, avevano, tra virgolette, se ne erano andati dal campo profughi di Jenin, 5 giorni dopo è iniziata l'operazione Iron Wall. Questa operazione che ha visto a oggi, dal 22 gennaio, 60 morti e 300 arresti più o meno. Quindi questi sono un po' i numeri. Quindi si sono dati il cambio. Prima c'è stata l'autorità palestinese e poi è iniziato il controllo di nuovo, l'operazione Iron Wall degli israeliani. Vabbè, è un discorso complicato, però appunto per dare un'idea che la situazione è ancora più complessa da un punto di vista politico. Una delle barricate appunto contro l'autorità palestinese e contro Israele. Questa era già l'operazione Iron Wall i primi giorni, come controllano le ambulanze. Vabbè, molto spesso le ambulanze in realtà vengono bloccate, gli viene proprio impedito l'accesso. Qua c'erano due ospedali lì sopra, non si vedono, ma ci sono due ospedali. L'ambulanza cercava di raggiungere l'ospedale e nonostante questo venivano fermate, controllate. Però vabbè, fin lì venivano, cioè, comunque venivano controllate. Invece loro gli era stato completamente bloccato l'accesso ai campi profughi. Quindi c'erano decine di persone in quel momento che avevano bisogno di essere portate in ospedale, ma le ambulanze non potevano arrivare. E questa è una dinamica completamente normalizzata, cioè sempre quando ci sono i raid, cioè, ok, sempre, il 90% delle volte le ambulanze gli viene bloccato l'accesso, non possono accedere. Questi sono solo alcuni dei mezzi appunto con cui fanno i raid, questo è sempre Jenin, questi sono i D9, D10, a oggi però ci sono anche i carri armati, quindi una cosa che non si vedeva dal 2002, hanno portato i carri armati per la prima volta in città. Io quando ero lì non era ancora successa questa cosa, è una cosa recente di una decina, 2 settimane, circa 2 settimane fa. E qua appunto chiaramente hanno mitragliatrici automatiche sui tetti delle macchine. I bulldozer sono ancora più, in realtà i carri armati sono ancora più impressionanti. Questa era una moschea. Vabbè, l'ultima cosa, poi forse sto parlando troppo, ditemelo. E niente, vabbè, questa invece è una delle giornate di liberazione dei prigionieri, come penso tutte sanno, grazie all'accordo tra Hamas e Israele sono stati liberati circa 1600 detenuti in questa prima fase, no? Palestinesi. Loro, vabbè, erano bellissimi. Questa è la seconda liberazione, dove hanno liberato circa 170 persone. Molti erano ergastolani, quindi persone condannate o all'ergastolo o comunque a decine di anni di carcere. Lei aspettava il fratello, che era condannato, doveva scontare altri 17 anni in carcere. Insomma, comunque, è stato un momento incredibile, penso, cioè veramente fortissimo. C'erano migliaia di persone, in realtà, in attesa dei prigionieri. E questo, un'altra cosa che comunque mi ha impressionato è vedere le condizioni dei prigionieri liberati. E queste erano persone che hanno passato anni in carcere. Comunque si vedeva che fisicamente erano molto provate. E poi appunto dico solo due cose in più su. Però appunto c'era gente che non riusciva più a camminare, gente che aveva avuto chiaramente dei problemi neuronali anche, sinceramente. E poi ad esempio molti avevano questi guanti di plastica, che io all'inizio dicevo, ma che cacchio sono? E in realtà questi sono guanti antiscabbia fondamentalmente, perché la scabbia era una delle pratiche, delle forme che hanno utilizzato come tortura sistematica nelle carceri. Quindi quasi tutti i prigionieri palestinesi avevano la scabbia, non curata per mesi, mesi, mesi, mesi, mesi, fino ad arrivare infatti a forme. Poi era una delle forme di tortura, chiaramente c'era di tutto, elettricità, botte, assenza di cibo. Infatti questa era un'altra delle cose, comunque, Questa era invece la prima liberazione dei prigionieri, hanno liberato 90 donne minorenni, è stato incredibile, era l'una e mezza di notte, si era occupata la strada, e non, perché gli israeliani hanno liberato le persone cercando di non creare forme di, insomma, di accoglienza, non volevano che si festeggiasse questo momento, perché comunque per la gente è stata una vittoria il fatto che venissero liberati tutti questi prigionieri, no? E Israele ha cercato in ogni forma, andando a minacciare le famiglie, cioè impedendogli di partire dalla casa anche, e appunto liberando le persone all'una e mezza di notte. Nonostante questo, c'erano migliaia di persone per strada. Ed è stato un momento di energia collettiva, di felicità incredibile. Forse è l'unico momento in cui si è un po' sentito, insomma, una vittoria, tra virgolette, cioè il fatto che cioè, che questa tregua aveva portato qualcosa di utile, ecco. Vabbè, dico proprio le ultime due cose sulla questione dei prigionieri. Questo era uno dei, in realtà ho conosciuto vari ex detenuti. Lui era uno di questi, aveva passato solo un anno in carcere. In un anno aveva perso 50 o 60 kg. Questo era come era prima, e questo è come è diventato. La figlia non lo riconosceva più, vi giuro, era bruttissimo. E niente, lui, ma poi altre persone hanno descritto le condizioni all'interno delle carceri. Nonostante il fatto chiaramente che gli avevano tolto all'inizio l'acqua e l'elettricità, gli avevano tenuto l'elettricità per pochissime ore al giorno, e avevano chiuso ogni forma di connessione con il mondo esterno, quindi i detenuti non hanno nessuna percezione, non avevano nessuna percezione di quello che accadeva fuori, non sapevano che cosa stesse accadendo, perché la televisione non c'era, i giornali non entravano, non avevano nessuna possibilità di comunicare tramite le lettere o appunto, come si dice, visite familiari, non vedevano l'avvocato, lui non ha mai visto l'avvocato in un anno, e tutte le udienze sono state spostate online. Dopo il 7 ottobre non c'era più nessuna possibilità nemmeno di andare in tribunale, quindi di vedere un volto amico, di parlare con un avvocato, niente. E anche andare a fare le udienze online me lo descrivevano come una delle forme di tortura. Li facevano uscire per 2 minuti di udienza online, li tenevano fuori cella 10 ore. In queste 10 ore venivano pestati sistematicamente e tenuti per ore con mani dietro la schiena legate e in ginocchio. Quindi questo per descrivere una forma come veniva trattata la gente normalmente. Erano in 14 a dormire in una stanza da 7 persone, quindi la maggior parte delle persone dormiva per terra, senza materassi. Gli sono stati tolti tutti i vestiti, e anche per questo la scabbia si è diffusa in forma così rapida e tra le altre cose. Infatti mi dicevano, ad esempio, all'inizio erano venuti e avevano detto tenete 2 capi di vestiario per tutto quello che avete. Dopo che gli hanno tolto tutti gli altri. Dopo che hanno fatto questo, gli israeliani sono entrati nelle stanze e gli hanno tolto tutto, tutto. Quindi loro sono rimasti solo con i vestiti che avevano addosso. Questo significa che quando ti dovevi lavare le mutande non avevi un altro paio di mutande da metterti, no? Quindi c'era gente che si è fatto dei calzini con i pezzi di coperta, insomma, queste erano le condizioni. E sicuramente pure il cibo è stato usato come forma di tortura. Non gli veniva dato abbastanza cibo. Tutte le persone che ho incontrato, tutti gli ex detenuti che ho incontrato, avevano perso decine di chili. E questa è veramente la normalità, ecco. E niente, a oggi siamo a circa, non mi ricordo se 50 o 60 detenuti morti dal 7 ottobre a oggi nelle carceri, sia come maniera proprio per le torture subite o per la negligenza medica, dato che appunto non veniva assolutamente, non venivano curate. Vabbè, poi basta. E niente, questo era uno dei momenti della liberazione dei prigionieri della prima liberazione. Di nuovo, c'era troppa felicità collettiva. È stato bellissimo. Vabbè, niente. Queste sono immagini che non c'entrano molto. Vabbè, solo questo è uno dei settlement che forse non c'erano fatto, solo per farlo vedere. Lì era una delle colonie israeliane. E questo era un territorio di ulivi dove stavamo raccogliendo le ulive. Nonostante appunto fosse il territorio di questo signore, sono venuti 2 volte i militari a cercare di mandare, cioè, a mandarci via. Questo. E accanto c'era l'intero uliveto bruciato, gli avevano dato fuoco pochi mesi prima. Lì sopra, lì dietro, un outpost, quindi queste nuove costruzioni che dicevo, l'allargamento di colonie, costruito tra l'altro sul terreno del nonno di una persona che conoscevo, che era nato dopo il 7 di ottobre. Perché infatti siamo a circa 60 nuovi outpost, quindi queste nuove costruzioni fanno parte della politica di colonizzazione israeliana, che di nuovo è esplosa nel 2024. Nel 2024 hanno costruito 59 nuovi outpost, quando negli anni precedenti eravamo a una media di 7 all'anno. Sono esplose queste nuove costruzioni, proprio perché la politica di colonizzazione sta subendo un'escalation mai vista. Basta, che poi parlo troppo. Io chiuderei qua e niente, se ci sono boh, insomma, domande, questioni, riflessioni, interventi, sono benvenuti. Allo? Abed, salam alaikum. Can you hear us? Hello. Hi everybody. Hello. Yes, can you hear me? Wait. Can you hear me? Yes. Can you sentite? Si sente? Yes. Thank you so much to be Oh. here with us. Welcome in Torino Thank you. online. Thank you for having me in this lovely meeting. Super nice. So, You cannot see everyone, but yeah. Quindi facciamo traduzione. So, nothing, Abed, if you can just tell us a little bit about the situation now, yeah, in the north of the West Bank, in Nur-Shams, in Tulkarem Camp, in Jenin, a little bit update about what is going on and yeah, even what we can do as well, maybe. Yeah, that's it. Thank you so much. Wait, just one second. We should do some translation. So, yeah, maybe if you speak a few minutes and after we translate in Italy, a few sentences and after we translate. Okay. Ah, yeah, and if you need the translation from Arabic, there is here one comrade that can translate. And yeah, no problem. Mish mushkila. Thank you. Much mushkila. Thank you Domanda. for having me here. Hi everyone in Torino, in Italy, comrades, brothers, sisters, and yeah. First of all, I am Abdul Karim. You can call me Abed or Karim, it doesn't matter. I am from a city in the north of the West Bank of Palestine called Tulkarem. Maybe it was in the news very much nowadays, if you follow the news. And yeah, I live in a hill between the two camps in Tulkarem City. We translate you. Ma voi, intanto vi chiedo, voi capite Those tutto camps. l'inglese? Are you translating? Yes, you were blocked for a second. Voi avete bisogno della traduzione o capite tutti? Traduciamo. Allora, dice, grazie di avermi qui, compagni, compagne, sorelle, fratelli, potete chiamarmi Abed. O Karim, sono di una città del nord della Palestina, Tulkarem, che probabilmente conoscete se state seguendo le notizie dell'ultimo periodo. And then, Abed, you were blocked when you were saying that we may know Tulkarem. But then we didn't hear you anymore, so you can start from there. Okay, so as where I can hear the Israeli military vehicles, ABCs, bulldozers are moving in the two camps, and since 45 days, this is the biggest invasion happened in Tulkarem. The Israeli forces, occupation forces, occupied many buildings inside the city and next to the camps, Ok. Ci sono. destroying. Okay, go ahead. Thank you. E dice che è la più grande invasione che sta avvenendo nel campo di Tulkarem, che va avanti da 45 giorni, che ci sono veicoli militari, bulldozer che si muovono in entrambi i campi. Dan. They occupied the Palestinians' houses, living in it, destroying it, and making it a military bases next to the camps and inside different areas in the city, including some associations like Social Work Committee, maybe Moria knows. They destroy our society, stealing everything in it, even computer, laptops, iPads, and destroyed the wheelchairs for special cases that we have to rehabilitate our people here. And now they are destroying, until now, they destroyed more than 40 buildings in Tulkarem camp, 30 buildings in Nushamis camps, and of course, in the north of Tulkarem, there is the city of Jenin and Jenin camp, which was invaded since more than 50 days now. And there is a. Okay. Che a Tulkarem durante l'invasione stanno occupando le case palestinesi e ci iniziano a vivere, le distruggono, ci fanno delle basi militari e anche dei posti sociali, e li hanno presi, e rubano tutto quello che c'è dentro, i computer e gli altri materiali e le sedie a rotelle. Questo parla specificatamente in realtà del posto anche dove lavora lui, dove lui, che in realtà è un posto comunitario dentro la città di Tulkarem, che dice che l'hanno distrutto, cioè conosco bene, ci sono, l'hanno distrutto completamente, hanno rubato tutto dentro. E che ci sono più di 40 edifici che sono stati distrutti nel campo di Tulkarem, 30 in quello di Nusham. Mi stava iniziando a parlare di Jenin, che sta venendo, che è sotto attacco da 50 giorni. We are done. Yes, yeah, and they are the Israeli military forces also when they destroy first they destroy all the roads, all the underground facilities, water, electricity, and then they started evicted or evicted the people from there, so around 12,000 from Tulkarem camps, 8,000 from Nushamis camp was evicted. This is the total inhabitants in those camps. They are living now in the villages around the city and inside the city in association, in people housing, in schools. Without anything, without any, didn't manage to take any belongings from their houses. Those like 40 buildings which is destroyed, the people 1 hour to remove their belongings while the road was destroyed, so they cannot do anything in 1 hour, and they lost their buildings, houses. Beside those, completely destroyed by D9 bulldozer, D10 bulldozer, big bulldozer, like demolishing their houses, and they cannot enter their camps. Now the camps was very empty except the Israeli soldiers moving around, not only destroying, stealing everything they can have. They stole many things from the houses. Yeah, they are not an army. They are militians, thief militians, maybe worse than Daesh. Dice If you want. che quando, Quando arrivano le forze militari, prima distruggono le strade, poi rimuovono l'acqua, l'elettricità e poi iniziano a sgomberare le persone, che sono 12.000 quelle sgomberate dal campo di Tulkarem e 8.000 quelle da Nushan. E le persone iniziano a vivere nei villaggi attorno, quelle che sono sgomberate, oppure nelle associazioni dello stesso villaggio, dello stesso campo, nelle scuole, senza niente delle loro cose. Di solito danno un'ora per sgomberare le case, dice è un tempo che non è sufficiente per prendersi quasi nulla, e poi le distruggono con grandi bulldozer. E adesso il campo è vuoto, ci sono solamente militari, rubano tutto. Dice non sono un corpo armato, sono una milizia di ladri, o anche peggio, sono peggio di Daesh. Beside those buildings which completely destroyed, there is hundreds of buildings was partially destroyed and some burned with everything in it. And the same, of course, happening in Jenin camp and Jenin city. Even like tanks entering Jenin now in these days. I don't know why they use tanks in empty places, and they claim there is military resistance, which is not true. Now they are destroying everything. It is difficult to describe the. I sent Moria some pictures from Tulkarem and Nushirm's camps, but it is difficult to explain how they destroy. It is like if you see the news about Gaza, it is the same like Gaza. This is happening in the northern part of the West Bank, especially Tulkarem, Jenin, and Tobas city and camps, but also a lot of attacks happening by extremely settlers in different villages around. All the cities under siege. Every village have a gate. A military gate that can be opened. Tulkarem was under siege for more than a month. The main entrance is from the east and from the south. From the north is closed. Recently they reopened it for a few hours to let people come in and go out. It is difficult to move, and there is a lot of flying checkpoints, and they arrested people. By the way, the military vehicles are just 300 meters away from my house because the camps is 500 meters from here. And yeah, so it is difficult to describe the situation, not just in Tulkarem, in different villages, in Jordan Valley, the evicted Bedouin communities by forces, either the military forces or the armed settlers. Ok. In Jerusalem, the same happening, even during Ramadan, which is the holy month for Palestinians, mostly Muslims. But everything is happening, but we are keeping fasting. Okay, let you translate if you want. Allora, oltre alle case distrutte, ce ne sono centinaia che sono parzialmente distrutte e altre che sono bruciate. E lo stesso succede anche nel campo di Jenin, dove in questo momento stanno iniziando a entrare con i carri armati. E dice che è difficile spiegare com'è la distruzione là, che se avete visto le immagini di Gaza è molto simile a quello che sta succedendo lì ora e che ha inviato delle foto a Moni che poi ci può mostrare. Ma non so, lui racconta che questa situazione è quello che sta succedendo nei campi del nord, ma che lo stesso succede anche ai villaggi che sono vicino alle colonie, dove. Ha parlato un po' dei checkpoint, dei cancelli che ci sono per entrare, forse mi sono perso una piccola parte, e che è molto difficile muoversi tra un posto all'altro. E dice che lo stesso succede anche ai beduini nella Jordan Valley che stanno venendo sgomberati o ai palestinesi da Gerusalemme Est, ma che nonostante stia succedendo da tutte le parti, loro continuano a resistere. Non so se qualcuno ha capito di più della parte dei checkpoint. As I said, it is difficult to describe what's going on daily in the daily life in Palestine in general after the genocide happening in Gaza, and it was continuous about the siege, preventing electricity, water, fuel, and food to enter Gaza. The same happening here, but the people are managed to stay alive, steadfasting in their lands, trying to return to the camps, trying to resist as much as they can, and by the solidarity of international communities, especially nations, not governments, unfortunately. I think the aim of the Israelis occupation now is to make the life very difficult here in order to force the people to immigrate or to leave the country, which will not happen. Maybe now voluntary immigration, but and by force in the countryside around that. No employment, since 40 days, no schools, no education, no nothing in Tulkarm and in Jenin, the cities and the camps, and destroying everything, stealing everything. But the people managed to be in solidarity with each other in order to make it the steadfasting as much. I don't like to speak as a victim, the people, we are not victims, we are under a fascist military militia, not a government even, not a state, which called the Democratic State of Israel. So I would like to hear some question in order to reply, if it's possible, because it is better to know what you want to hear and how can you support, especially politically support for Palestinian cause. Dice che quello che succede giornalmente è difficile da raccontare, come è avvenuto con l'assedio a Gaza, in cui non si faceva entrare, non si fa entrare elettricità, cibo, lo stesso sta succedendo lì, ma le persone resistono e restano, e anche grazie alla solidarietà internazionale, non dei governi, ma delle persone. Dice che quello che vogliono è rendergli la vita impossibile, per spingerli ad andarsene e per esempio a fare un'emigrazione volontaria. E tra le difficoltà che ci sono è che per esempio da 40 giorni né a Tulkarem né a Jenin ci sono le scuole e non c'è niente che funziona, ma le persone hanno solidarietà reciproca. Lui dice che non vuole parlare di se stesso come una vittima perché loro sono sotto una milizia fascista, non uno stato come si dichiara Stato Democratico di Israele. E poi propone di fargli delle domande perché è più facile rispondergli tramite delle domande, soprattutto magari legate al tipo di supporto, principalmente politico, che si può dare. I think there is what we need from you and from all the nation to be humans and to keep activities in solidarity with oppression people, especially Palestinian, because it is long occupation, and nowadays it's a very critical time. According to the base, that no one will be free if the others are not free, and we still have hope. This is not the first time of invasion. We was I personally bust because I'm become old. Bust 67 occupation and the first intifada. I was in jail only for 6 years, not so much comparing to others who spent 45 years and still in jail. Yes, we still have hope because humanity will win in the end, and Palestine will not be evicted from their homeland. We are in the ground in Gaza, in 48, in West Bank, around 7 million, and the Israelis, by the way, are also 7 million or 9 million maximum. And this struggle will be continued until Palestinians achieve their demands for freedom, justice, and having independent state like everybody. And I consider myself an activist, a human rights observer, and a researcher and activist working with ISM, International Solidarity Movement, which is participating with Palestinian international activists, participating with Palestinians in direct nonviolent actions, activities, or unarmed activities. But the most important thing that people, when they return to their home, making gatherings like this, making demonstration to highlight the Palestinian cause, between them, to put a bridge on their governments. Unfortunately, this imperialism governments and who are supporting Israel. I think Israel also lose its image as a democratic state. It becomes completely an apartheid state, fascist state, and it should be stopped, even if it has the power and the extremely support by new government, what called the president, but he is, I don't know what is he. So keep in solidarity, support us as much as you can in your country. Keep continue. If the ceasefire happened in Gaza, it doesn't mean that we stop demonstrations or activities in solidarity with Palestinians, because this is continuous in the West Bank. It is continuous in every single aspect of life, food, electricity, water, everything. People are losing jobs, of course. Unemployment's high, very high. Agriculture was destroyed. There is a lot of land confiscated to expand settlements, colonizer settlements, which is, the people who have been here knows this situation very well. Allora, if you want to start. Yes. Dice che quello che hanno bisogno dalle nazioni, e prima dava per differente nazioni e governi, nazioni di persone, è mantenere la solidarietà con il popolo palestinese, perché nessuno sarà libero finché non tutte le persone sono libere. Lui dice che non perde la speranza, che sta diventando vecchio. Durante la prima intifada è stato in prigione solo 6 anni, ma è stato fortunato perché altri ne sono stati 45, però continua e continua ad avere speranza, perché dice l'umanità vincerà. E siamo, dice, sono in 7-8 milioni tra Gaza, West Bank e le zone del 48, e anche nel mondo sono altrettanti. E che continueranno a lottare finché non avranno ottenuto la libertà e un proprio Stato. Lui dice che lui è una persona che combatte per i diritti civili e che lo fa anche con delle campagne con ISM, che è l'International Solidarity Movement, e dice che nel mondo bisogna continuare a mobilitarsi per la Palestina con manifestazioni, eccetera, per la causa palestinese e per fare pressioni sul proprio governo e su chiunque supporta Israele, ma che anche Israele in questo periodo sta perdendo la sua immagine e sta mostrando il suo vero volto di uno stato fascista, e anche questo lo porterà a perdere il supporto. E quindi invita a continuare a lottare anche se c'è stato il cessate il fuoco a Gaza, perché il cessate il fuoco non significa che la situazione sia migliore nelle altre zone, come in West Bank, dove la gente adesso per esempio non ha più lavoro, hanno perso il lavoro, ma anche i campi sono difficili da coltivare, ci sono problemi nell'agricoltura dappertutto. Yes, I think my comrades keep strong. We are keeping strong because we have hope, still hoping from our nation, from the nations around the world, to stand with Palestine until it will be free, and it will be free soon. This is extremely violent and aggression from the Israeli occupation, because they didn't have anything else to do more than just killing, arresting, and destroying everything. And they will done like every fascist done in the past. And we still like steadfasting in our country as much as we can, and we will continue resisting, and we continue having our ability to resist in different ways, especially on armed resistance. Maybe the rate of violence, military violence by settlers, by Israeli immigration forces is very high, and even kind of resistance of protection prison in different area. As you know, there is an activist, an American activist, who was killed in cold blood by the Israeli military in non-violence gathering or demonstration in a village called Peter, called Eichenwald. But until now, for example, like more than 800 Palestinians killed in the West Bank in this last invasion, around 30 killed in Jenin. Today they killed 4 people, including a child, and maybe 13 killed in Tul Karim in this 40 days. And who knows what will happen, but yeah. This is the situation, and this is the resistance, and this is the steadfasting, and this is the international solidarity should be continued as the war, as the occupation are continued, until Palestine will be free. Nice to see you, and thank you for listening to me and for gathering for this event. Quindi, of solidarity, and yeah, quindi dice, I appreciate that. Thank you. Lo ringrazio. L'ultima cosa che ha detto è che compagni, tenete duro, abbiamo grazie, noi teniamo duro finché la Palestina non sarà libera. Israele non ha nient'altro da fare che distruggere, cadrà come ogni altro stato fascista è caduto. Qui Israele usa molta violenza anche contro chi lotta pacificamente. Come sapete, è stato ucciso un attivista statunitense e 800 persone sono morte in West Bank dall'ultima invasione. 30 a Jenin, altre a Tulkarem. Chissà cosa succederà. Comunque, questa è la nostra resistenza e la nostra lotta. Grazie per ascoltarci. Quello che è tra fine, teniamo duro finché la Palestina non sarà libera. Magari prima proponeva delle domande. Maybe we, people were clapping to you. I think you heard it. And now we ask again if there are some questions. Do you still have 5 minutes to stay with us? I have all the night. It is Ramadan. We are just eating and sitting. But I couldn't, for example, I couldn't go to the city now because the Israeli military are expanding and they are in the main road and it is dangerous. It is not like every Ramadan. People are wake up and being in the street until midnight or after midnight, but nowadays after 9 o'clock, it is 9:30 now. Tulkarm city is empty. The camp is empty. No noise. No electricity. Nothing in the camps. So it is dangerous to move around. Even they can crush any car by their ABCs or by bulldozers, military bulldozers. And yeah, the road is dangerous. Traveling between inside the city is dangerous. Traveling outside the city, going to other cities, it is very dangerous. Lui dice che... Nowadays, since a month I didn't go to Ramallah. I used to go every week, once every week, but now it is seem difficult. But yeah, we will try to do our best. Lui dice che c'ha tutta la sera per stare con noi, ma qui c'è solo, dice, devo solo mangiare, ma in realtà è anche perché in realtà in città non ci si può andare in città è diventato pericoloso, molto pericoloso, spostarsi nelle altre città è incredibilmente pericoloso, e prima ci andavo sempre, ma un mese che non si può fare. E tutto il tempo traducevo sbagliato, prima quando dicevo continuiamo a resistere, diceva continuiamo a resistere ma anche continuiamo a digiunare, perché in realtà è Ramadan e quindi quando diceva we keep on fasting significava continuiamo a digiunare come atto di resistenza che portiamo avanti il Ramadan nonostante tutto questo. Sì, se ci sono delle domande. Which part of the story, you know, so there is a guy will do a question. Okay, so the question is, what is your impression concerning all those states which act as close to you, like Egypt? Che altri stati hai detto? Egypt, Morocco, and Tunisia. And he wanted to know, what is your impression concerning those states? I didn't get it. Can you repeat the question? Yes, he wanted to know what we expected from Egypt and Tunisia and the Arab world. Yes, what is your opinion concerning those states like Egypt, Morocco, or Tunisia that are that act as closer to Palestine than other countries? What? No, the closer countries to Palestine is Egypt, Syria, Lebanon, and Jordan. Not Morocco and Tunisia. Tunisia is far away. It is next to Italy. But unfortunately, all the Arab regimes are scared from the Americans, which bore Israel, they do nothing. As regimes, the nations are under military regimes or dictatorship regimes. What happened in Syria now for civil war and radical Islamic militias run the government by supported by America and Turkey. They do nothing except obey the Americans and oppress their people, not to be in solidarity with Palestinians. But we have hope with the Arab nations beside the Europeans and the nations. The regimes, unfortunately, they are doing nothing. They do whatever like the American policy asked them to do. I respect and love the Tunisians and Moroccans and Algerian nations, Yemen and all the nations, but they have no power to do so many things except being emotionally with the Palestinians. Inshallah, they will also make revolutions in their countries in order to change the situation. But I think the Palestinian cause can unite those nations. In order, the patience of the nation will be ended, and they will be excluded, especially in Jordan and Egypt. The military regimes will not last. They will be defeated somehow, soon or later. Quindi dice che tutti i paesi arabi sono impauriti dagli Stati Uniti e sono sotto dei regimi, come per esempio quello che è successo in Siria, supportato dagli Stati Uniti e dalla Turchia. Quello che sta succedendo ora è che non fanno altro se non opprimere la loro popolazione e che vorrebbe essere solidale alla Palestina. Dice, nonostante questo, hanno fiducia nel mondo arabo e nelle nazioni arabe, ma non nei loro regimi che amano queste popolazioni, ma non fanno al momento non possono fare molto a parte che avere un vincolo emozionale con la Palestina, e che inshallah, che speriamo facciano una rivoluzione anche nei loro stati, e che per esempio la Giordania e l'Egitto sono sotto dei regimi militari, ma che questi regimi militari prima o poi verranno sconfitti. We are a person is making you another question, now we will translate it to you. Okay. So there are two questions. So one is, what do you expect that Israel will do in Cisjordania? What do you expect will be the next moves of Israel? And the following question is, how do you think would be best the solidarity from here? And what's the strategy? What's the action? What's the type of solidarity that you think is most needed from here now? What the Israelis may do now, as I said, that now they're making the life very difficult and impossible in order to let the Palestinians immigrate from their countries, expanding settlements and using violence as much as they can in order to force us to leave our country. But I don't think they will succeed because, we still have hope, we have residents. Maybe the rate of violence is very high nowadays. People at least scared because it is a scary situation. But the Palestinians will applies again, and doing, I think, the next Intifada will come not soon, and it will be the end of the occupation and the end of the apartheid regime here. This is what the Israelis aimed, and now they have a very open support by American new regime with a Trump policy who want to occupy the world, not only Palestine or not only Canada and Greenland and Panama and whatever he is thinking about. They feel that this more Israelis, more Jewish people around the world are affected by the image of Israel now, and they will also will not continue supporters, which is we hope that. That's why when I said that the most needed supporting is being in solidarity with Palestinians to highlight the situation here and to keep activity of solidarity in your countries. Maybe you are welcome to Palestine to join us in our resistance. Maybe we turn it to a protection-based situation and monitoring what's happening, going back 80% to letting Italians, Europeans, nations knows more, especially the new generation, knows more about the Palestinian cause and what the Israeli fascist regime are doing here. This is more important than financial aids or whatever supporting, because we used to live in this very difficult situation of living under the occupation. Our needs is dignity and freedom, and we cannot achieve freedom without people around the world united for a revolution against any kind of oppression, any kind of occupation, which lasted like more than 100 years now. No one will forgive, no one will forget. So we will keep resisting, and we hope that you are with us. And I think more people are with the justice. So we will win in the end. We will reach victory for humanity, not only for free Palestine. Free Palestine, free Italy, free anywhere in the world. Keep your activities. This gathering and the other gathering, and I will let you learn more about the situation here and in the other countries. Unfortunately, Arab countries are very occupied in different ways, and there is a lot of internal conflict. Now the turn of Syria, Lebanon was destroyed by Israel. Now Syria is destroyed by this civil war. Inshallah, it will pass very quickly. And yeah, this is the situation. Even solidarity, my friends, my comrades, my brothers, sisters. Quindi dice che quello che lo Stato di Israele farà è cercare di rendergli la vita impossibile per fargli venire la voglia di lasciare le loro vite lì e lasciare quel posto, ma loro hanno la resistenza e la speranza dalla loro parte, anche se hanno anche ovviamente la paura. E quindi più di cosa farà lo Stato di Israele, si chiede cosa farà la Palestina, e dice che la prossima intifada arriverà. E forse non arriverà presto, ma quando arriverà porterà la prossima intifada, secondo lui, la fine dell'occupazione. Perché anche se è vero che adesso Israele ha il supporto del nuovo regime negli Stati Uniti, che vuole occupare la Palestina, ma in realtà vuole occupare tutto, Panama, la Groenlandia, tutto il mondo, e molte persone si stanno rendendo conto della reale faccia di Israele, e anche molti ebrei in giro per il mondo non lo supporteranno più. Sul cosa fare, dice di continuare le manifestazioni oppure di andare in Palestina, di unirsi a loro per un periodo, magari come protective presence, che sono la presenza protettiva nelle zone occupate per evitare che venga sparato contro chi c'è lì, perché questo porta anche a sapere di più di quello della causa palestinese e a vedere quello che fa realmente lo Stato fascista di Israele, e questo realmente è molto più importante che qualsiasi supporto finanziario. Che la dignità e la libertà loro se la ottengono, ma è importante che le persone sappiano perché nessuno dimenticherà e nessuno perdonerà. Quindi dice di raggiungerli, di continuare le attività qua, e che la vittoria arriverà, ma la vittoria non sarà solo una vittoria per la Palestina, ma per l'umanità intera. Quindi non solo Palestina libera, ma Italia libera e mondo libero. E dice di continuare le attività. L'ultima cosa che ha detto dopo l'applauso era di continuare le attività, che purtroppo gli stati arabi stanno vivendo dei momenti difficili con dei regimi interni, e forse non ho capito l'ultimo punto. And now there is another question that we will translate to you. So the question is, how do you organize when the streets are destroyed or you don't have access anymore to electricity and water? Is the rebuilding self-organized or does the Palestinian Authority intervene? La Palestina non va avanti, they are very corrupted people care about their chairs after Oslo agreement, which is a big mistake that our leaderships and parties leaders, leftist and nationalism are failed, unfortunately. So the Palestinian Authority have no power, have no money, also no authority, like the employees in the West Bank, the Gaza didn't receive any kind of support or income. But even in the West Bank, the Israeli occupation occupied and still Palestinian Authority even the money of taxes, so the employees didn't receive their salaries. 70% of the salary, which is very low, given to the employees in the 10th of this 2 days ago, 70% of their salary of January. We are in March, but the salary of January only given to the some employees. So the Palestinian Authority, Palestinians are committed to each other's, and for example, the evicted people, thousands, more than 25,000 Palestinians evicted. They are living in their relatives' houses, in a school. For example, where we hosted, where Moria was living now, this society hosted refugees, and people are offering food, needs, mattresses, blankets to those people. We are in solidarity with each other as communities, as local communities, not like supported by some NGOs or some international organization which is not needed. Even it is a kind of bureaucracy aids or whatever. But our country is rich. We can manage. No one living in homeless or no one being starving from lack of food. Because, yeah, we are in solidarity, especially now in Ramadan, people are like supporting each other as much as they can. Of course, if this crisis continues, it will be difficult. But this is not the food is not the aim things, dignity, and this situation will make the surface for intifada. People, when they are suffering, they will uprising, hopefully. And I have hope in general with the new generation in Palestine and in the world to do much things for humanity. What you are doing is good, but always we said, what can be good? What can be better? So better to do something together in order to achieve our demands. Dignity is very important, and food, we can manage. We can manage. Yeah. We have hope. We still smiling. We still have but like marriage. Maybe it is not like. Yeah. Quindi the thing is going. So we will not die except by Israeli fire, not from over. Of course, there's some people are suffering. Some people are hope or imagine to immigrate somewhere in Europe and other countries. But I don't think the life as a refugee, even in our country, is good. I saw the people there. Yeah, we will manage. No place like home. So we will stay at home. Even in a tent next to the home, which is the story. Don't worry about us. Worry about humanity and justice to be achieved, not about people starving here or there, or yeah. Allora. Thank you. I don't know if I answered the question. Yes, now I will translate it. Ok, dice, le autorità palestinese sono dei corrotti che gli interessa solo della loro poltrona, ma a parte di questo non hanno né potere sulle persone, ma neanche davvero hanno soldi. Per esempio, dice, il 70% dello stipendio, solo il 70% dello stipendio di gennaio è stato appena dato ai funzionari pubblici, ad alcuni funzionari pubblici dell'autorità palestinese adesso. E quindi sono le persone in realtà quelle che si responsabilizzano l'una dell'altra. E anche, dice, per esempio, ci sono anche posti che danno degli aiuti, come dove stava Moni, che era un punto di distribuzione, o ci sono anche delle ONG che danno dei supporti, però sono quasi più un supporto burocratico, perché la solidarietà se la fanno tra di loro, e di non preoccuparsi che non c'è nessuno che vive in strada o nessuno che fa la fame. Anche adesso che nel periodo del Ramadan c'è molto supporto reciproco. E poi ha rimarcato molto che il punto non è il cibo o di non preoccuparsi che non soffrono la fame, quello che è importante è la dignità, e che questa situazione di ingiustizia secondo lui è quello che porterà alla nuova intifada, e ha molte speranze nelle nuove generazioni che questo avvenga. Dice, quello che fate per esempio voi è buono, ma si può fare sempre di meglio facendo le cose insieme, e dice: no, a noi ci rimane la dignità, non vi preoccupate, nessuno di noi qua morirà per la fame, se moriamo è solo sotto il fuoco israeliano, e anche chi se ne va, la vita fuori non è come la vita qua, e non c'è nessun posto come casa, anche se la casa ti è stata distrutta. E quindi poi ripeteva di non preoccuparsi del cibo o di questo tipo di aiuti, che quello che è importante è la giustizia e l'umanità e di lottare per quello. There is another question. I would try to make it in English. I would try to do my best. So the first question was related to the Arab countries, the Arab populations. My question is about the Iranian population and the Iranian regime, and what you think, you personally, I mean, of what's going on with the Iranian people and Iranian regime. And about that, I would w like I want to bring forward this question, which is in the 70s, when there was when people spoke of the armed struggle, they were inspired by what the Palestinian people were doing. It was basically like the manifesto for armed struggle in the Iranian situation was prefaced by what George Habash was saying at that time. The preface of the Armed Struggle Manifesto was written by George Habash, the founder of the Liberation Front for Palestine, right? But now we are in this situation where it seems like, in appearance, when you speak of the Arab countries, you speak of their relationship with the Americans. In appearance, it seems like the Iranian regime is against Americans, isn't it? At the same time, it seems like the Iranian population, at least in some part, find Israel as friend of itself because it might help, in their opinion, Iranian people to liberate themselves from the Iranian regime. It's this stupid idea of, you know, the enemy of my enemy is my friend, it seems. So I my question was, what you personally think of what the Iranian regime and Iranian people are saying and doing? When you say that it's important that different nations demonstrate and do something, what would you say about what Iranians and Iranian regime separately are doing? We translated the question in Italian. Scusate, io faccio schifo con l'italiano, con tutte le lingue. Mi collegavo alla prima domanda, che era riguardo le popolazioni arabe, e quindi la domanda è invece come Karim personalmente si trova, si sente rispetto alla, separatamente alla popolazione, allo Stato iraniano, popolazione iraniana, Stato iraniano, regime iraniano. Perché parlando delle popolazioni arabe si stava dicendo che loro hanno una certa posizione rispetto agli americani, in apparenza sembra invece che gli iraniani abbiano una posizione contro gli americani. Allo stesso tempo questa cosa pare che stia creando questa situazione in cui per il popolo iraniano, almeno in parte, il nemico del nemico è l'amico, quindi ci troviamo in questa situazione che per una parte della popolazione si vede l'Israele come una salvezza, e questo in una situazione in cui, quando negli anni 70 si parlava della lotta armata, il manifesto per la lotta armata veniva scritto con una prefazione da George Habash, che era il fondatore del Fronte per la Liberazione della Palestina, mi sembra che si chiami. E quindi collegandomi appunto alla primissima domanda sulle popolazioni arabe, mi chiedevo come Karim si sente e parlerebbe di quello che stanno facendo sia il regime iraniano che la popolazione iraniana. I don't want to take all the time from you and your comrades here to continue your event, solidarity event, but as I said, that no one will be free until everyone is free. So the Iranian regime is a radical Islamic Shiite or whatever regime. It is not good for its nation. So yeah, they didn't do anything harm to the Palestinians. They support the military. They seem supporting, but it is true that it is not the enemy of your enemy is your friend. No, they do their policy, and the Iranians need to free according to this to their regimes. The same like what's happening in Turkey against Kurds and Syria against Kurds, Iraq is a previous regime against Kurd people, and Kurd people with some political parties becomes like a pro-Israel, and they used to be in the side of Palestinians, and I believe in nations, not in regimes. Even in Palestine, like all what's happening in Syria, the Muslims brother, this new regime is like Hamas, for example. But now they are resisting the occupation, and okay, but if they control the situation in Palestine, it will be worse than even Palestinian Authority, because they are the same but with beard. So it is not the regimes, the Iranian regimes, of course, they are team supporting Palestinians, but they are care about their own things and to keep the regime continue as much as they can. So I didn't believe in this ethnics or regimes. It can be enemies anytime. They are seeking for their benefits. Turkey, Iran, and some other Arab countries, like every regimes around the world. So I think that we will depend on our own power and our pure solidarity, activists, humans around the world, not on the regimes. Regimes can fight each other and just to keep going, but they will not do the job instead of us, instead of nations. Regarding George Habash and the Palestinian leftist parties like George Habash, yeah, Palestinians, according to the international law, have the right to resist the occupation in all ways and in every method: military resistance, non-violence resistance, and armed resistance. But the power of the people is the great power. If they uprise and make intifada, I hope that all nations will be liberated from their extremely dictatorship regimes. We cannot make enemies around the world, so Iranian regime is not our enemy now. Our enemy is to get rid from the military occupation by the fascist Israeli state, and then Palestinian's nation will be in the side of other nations to get liberations. So it is obvious that, yeah. So unfortunately, the leftist party, Popular Front, don't have a party, or our communist party are very weak all over the world, not only in Palestine. Democratic should be achieved for the nation, rid from corruption, rid from military oppression. So this, the power of people can be joined or more effective if they are free. So it is not only the regime's support. The regime's support will have a limit. There is diplomatic and relationships by themselves to keep the regime. Now, the Assad regime in Syria was gone, but also the new regime, who knows? They are what they will see. There is no democracy if the people are not free. So, we will not depend on other regimes, not in Arab regimes. Maybe in the past it was good during Egyptian previous regime of the Nasser, but even nationalism also failed in keeping developing the countries in democratic way. So if there is no democratic life in a country, there is no, so imperialism or capitalism also occupied most of the European countries, and the people cannot express their feelings very freely. I saw how the police in Germany attacked people demonstrating in solidarity with Palestinians. It can be also happening in the Italian regime. I don't know. You know more than me. Being in solidarity, being in the side of humanity is the most important thing. Lui dice che all'inizio dice che non vuole prendere tempo, che così possiamo continuare la nostra attività, però parlando del regime iraniano, lui dice che il regime iraniano non è buono per la sua nazione, cioè per la sua gente, e il discorso del nemico del mio nemico non è, è che il discorso che il nemico del mio nemico è un amico è un discorso che non è valido, come si vede anche con i curdi combattuti dalla Turchia, dalla Siria e dall'Iraq. E lui dice: però io non credo nei regimi, io credo nelle nazioni. E l'Iran sembra supportare la Palestina, ma in realtà ciò che vuole il regime è mantenere se stesso, e questo è quello che vogliono i regimi. E lo stesso vale per la Turchia. E come ogni altro regime, lui non si fida. I regimi si possono fare guerre tra di loro, ma il loro scopo è solo esistere e mantenersi. Ma non faranno mai il lavoro per noi, per le nazioni, che credo intenda dire il popolo, insomma, sì. Riguardo al fondatore del Movimento per la Liberazione della Palestina, lui diceva che il popolo può insorgere armato contro i propri regimi, però dice ora sull'Iran non possiamo farci nemici in giro per il mondo. Ciò che a cui noi adesso ci opponiamo sono tutti gli stati e tutti coloro che supportano il regime fascista di Israele, e quindi non è formalmente il nostro nemico l'Iran. E parlando sempre del fondatore del Movimento della Liberazione della Palestina, dice adesso le organizzazioni comuniste sono deboli e bisogna puntare sul potere delle persone. Giusto. E poi ribadiva che i supporti dei che i regimi possono dare sono limitati, cioè possono essere questioni burocratiche e possono fare dei piccoli passaggi, ma alla fine il vero scopo che li muove è il mantenimento del regime stesso. E forse in passato può essere stato utile questo tipo di supporto, per esempio con l'Egitto, ma non è questo il caso adesso. E questi tipi queste oppressioni comunque, faceva rimando agli stati imperialisti, dice che si vedono anche qui da noi, per esempio nell'impossibilità di iniziare a esprimere le proprie opinioni, per esempio in Germania con le manifestazioni per la Palestina, in cui le persone non si possono esprimere, più o meno questo. Hi Karim. So before you mentioned that you Palestinians in the West Bank, you don't like to be portrayed as victims, not only as victims, but rather as a population who is resisting against the invasion of a fascist state. So I would like you to provide a few examples of what does concretely mean to resist in everyday life in Tulkarem. Nowadays, I think that steadfasting, not accept evictions and not leaving the country is the only option that remains for people who are suffering from poverty, from lack of work, nothing to have. But I think this situation, this condition will lead to another intifada, another uprising, because dignity is very important. Feeling defeated is not a good impression. So there is no way without being united, all the Palestinian parties, political parties in different ways, and yeah. Now steadfasting or keep in our land, even around the camps, and returning back to the camps, which is a temporary camps. We have the right of return to our homelands in 48, in Jaffa, in historic Palestine. This is the aim of the Palestinians. So I don't like to deal like victims. We are freedom fighters. I believe in non-violence or unarmed resistance to population, because it is the most power of people. All the people can participate in it in different ways, in boycott or BDS movement, demonstration. This is what we can do nowadays, until the whole nation with the Arab nations and international supporting and defeated the expanding of fascists around the world. The extremely right wings in different ways are expanded in the countries, unfortunately, in different countries. This is the power of people. The power of people will not defeat it, and we have our people. We will not be like indigenous nations in America, in Australia, and the other ways. I have hope, and I don't want to feel to deal like a victim, because I am, and all the Palestinians are seeking for dignity, justice, and liberty. That's why we will continue this way until we achieve. Yeah, the fascist regime will not last. They reach their top in their crimes against humanity, and they should be isolated by the people. And when they are isolated and under siege, they will خلاص. It will be come to the end. I think 100 years of suffering without evicted Palestinians, even from Gaza, people flood from south to north Gaza, which is destroyed. That means that we have the ability for resisting, for steadfasting in our land until we have the power. The united power of the nation can defeat any kind of aggression, as much as it be worse. We are 7 million in the historic Palestine now, and we will not leave. Even if we leave to the Arab countries around, if some leaving, they live in bad condition in Jordan, in Syria, in Lebanon, in the refugee camps, and I think this will have end. People will uprise, will explode against their oppression. So, yeah, let's have hope and expand of solidarity with Palestinian cause around the world. Give that hope, the power of people in Italy, in Palestine, in Tunisia, in everywhere. At the end, they will win. As you will want as activists in Italy for some demands that you are struggling for good life. It deserves to lose until the new generation won. And the new generation, according to this urban world, humanity, I think they will win in the end. Mi faceva notare che questi capitoli. Allora, dice che oggi continuare a digiunare e non lasciare il campo è. When you say fasting, do you mean fasting of Ramadan or still fasting? No, still fasting, keep in our homes and keep in our land in spite of this violence condition, not fasting. I am not fasting in Ramadan. Fasting is the minimum. To face hunger is very, very small issues. Okay. Maybe hunger strike is better than fasting sometimes. Okay. Even in prison, we like run hunger strike for 30 days to achieve our demand. So the power of people is, it is a very powerful way to win. Yeah. Va bene, quindi ritorna a giusto quello di prima, non era mai digiunare. Era resistere, e su questo dice che meglio di digiunare è lo sciopero della fame, e che lo portano avanti spesso nelle carceri per ottenere qualcosa. Quindi oggi è continuare a resistere, non lasciare il campo, e nonostante la situazione difficile in cui li stanno mettendo, la mancanza di lavoro, la distruzione di tutto, e comunque tutta questa sofferenza che stanno vivendo adesso, per cui dice che bisogna resistere, è una sofferenza che coverà, secondo lui, ciò che coverà la nuova intifada. E continuare, quindi dice, ribadirà come fanno è continuare a resistere e stare nelle loro terre. Lui dice, noi non siamo vittime, ribadiva, siamo guerrieri della libertà. Lui crede nella mobilitazione non armata, come i boicottaggi, il BDS, e che questo possa unire il potere delle persone nelle varie nazioni, e che questo non sì. E dice che loro non saranno come gli indigeni nativi americani, e che la dignità, la giustizia e la libertà sarà quello per cui lotteranno finché il regime fascista non cadrà, e che questo regime fascista deve essere isolato dalle persone, e il fatto che stiano cercando di distruggere la Palestina da così tanti anni, ci sia così tanta resistenza, e ci sia ancora questa resistenza, dice che l'unione dei popoli e delle nazioni porterà alla liberazione della Palestina, loro non se ne andranno, e anche se qualcuno se ne andrà in altri paesi arabi per vivere, per vivere comunque male in dei campi di rifugiati, anche lì si coverà la rabbia per la nuova intifada. Thank you very much. Thank you. Okay, thank you so much, Abed. I think you was very clear You're welcome. about everything, and thank you to give us your lecture and what I think as well we can do in order to support the Palestinian cause. So nothing. Thank you so much. I think we You're welcome. finish. You know that Cuban society was occupied by being a military base for a while. Where you are living now, there is refugees from the camp living, Wow. hosting by the Women Union instead of international. Well, I better. Okay, see you It's soon. better. No, better. Thank you so much. Inshallah, see you in Palestine. Free Palestine will be free. Like a guest, not like only activist. We will Inshallah. come to Basra to demonstrate against construction of companies. Inshallah, I wait for you as Inshallah. well. See you Okay, soon. we will see you soon. Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Have a good Bye, night. everybody. Bye. Bye. Hi.